Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'esplorazione l'avremmo fatta il venerdì successivo. Così, durante la settimana, abbiamo preso un canotto grande con i remi e uno più piccolo per stivarci il necessario. La previsione era trovare l'isola deserta che sognavamo. Mi chiamo Cinzia, vivo a Trento, ho un negozio di sartoria qua a Trento, un sacco di clienti, una bella vita, tranquilla, e sono molto soddisfatta del mio lavoro, anche perché mi permette di essere a contatto con la gente e in più vedo che i miei clienti sono contenti di tutto quello che faccio. Grande, grande! Basta veramente pochissimo per capire che Cinzia è un fenomeno e la sentiremo più tardi al telefono. Io l'ho già fatto prima, come faccio tutti i giorni fuori onda, per farci quattro chiacchiere. Ma la storia di Cinzia ha una parte di follia e una parte invece di normalità, un po' come gran parte delle storie interessanti. In questo caso però la parte di follia è molto più interessante di quella di normalità. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it per continuare a mandare le vostre storie. Per la storia di oggi invece, se avete un computer acceso, avete Facebook aperto, voi siete qui Radio24, perché la storia di Cinzia parla di conquistare una nuova terra, nella fattispecie un'isola deserta, che appare come un'isola deserta, e soprattutto nel conquistarla ci si prepara come se si andasse su un'isola deserta, ma in realtà lei e l'allora suo ex compagno fanno una scoperta particolare. Se però avete mai scoperto, se avete veramente mai raggiunto con qualunque mezzo, con una bicicletta, a piedi, con le mani, arrampicandovi, se avete raggiunto e conquistato vette, montagne, colline, isole, deserti, questa è la puntata per voi. 349-238-6666. Vi faccio un esempio. Fabrizio scrive: conquistammo le collinette. Si trattava di un ex cantiere. L'area comprendeva gli scavi per le fondamenta di due o tre palazzi. Si trovavano tra la periferia del paese e la zona industriale. Ci riuscimmo grazie alla nostra abilità nell'uso di cerebottane e fionde. La strategia e il nostro numero elevato fecero il resto. Conquista, esplorazione, colonizzazione. 349-238-6666. Roberto invece parla di un'altra tipo di scoperta. Deserto del Gobi, Mongolia. Salita alla duna che canta, luglio 2011. Tutti mi incitavano, io procedevo a zigzag come su un sentiero di montagna. A una svolta vedo la sommità della duna e i tre amici che mi chiamano. Raccolgo le forze con tutta l'aria che ho nei polmoni. Spingo e gattonando mi ritrovo in cima. Per un attimo non parlo, mi esprimo a gesti, ci abbracciamo, chiamiamo Fabio. Che meraviglia, il vento continua a ululare e io sono sulla duna che canta, felice. Abbiamo sabbia ovunque, nelle scarpe, nelle tasche, nello zaino. Stiamo su un po', passeggiamo sul crinale, poi a piedi nudi, a balzelli, scendiamo. Sono emozionata, questa escursione è stata una sfida che ho vinto e da oggi avrò meno paura, più grinta ed energia. 349-238-6666. Partendo dalla storia di Cinzia, che parla della conquista, diciamo, di un'isola, diciamolo, di un'isola deserta. Poi si scopre che non è così, però nella nostra fantasia, nella sua e nella loro, quando l'hanno conquistata, era deserta. Partendo da questa storia abbiamo deciso di parlare di luoghi che ancora sono o non stati scoperti o talmente inospitali che solo in pochi ci arrivano. E nella seconda parte, alle 16.35, avremo il piacere di avere ospite forse la più forte alpinista che ci sia in Italia, sicuramente, probabilmente nel mondo, che è Nives Meroy, che ha conquistato, anche se a lei questo termine non piace, 11 dei 14 8.000 che ci sono in giro per il mondo. Questo più tardi, dopo la borsa, alle 16.35. Adesso, invece, Cinzia e la sua isola deserta. Era venerdì sera di un agosto di 8 anni fa. Io e Paolo, come ogni venerdì, andavamo al mare. C'era un posto vicino all'isola di Albarella dove parcheggiavamo l'auto e guardavamo il tramonto. Era un posto bellissimo e ogni volta che andavamo là ci chiedevamo cos'era quel lembo verde che si vedeva all'orizzonte. Così, un venerdì, decidemmo di andare ad esplorare. Siamo capitati su sto posto, abbiamo visto sto tramonto stupendo e in fondo c'era un pezzo, un lembo di terra. Siamo partiti alle 7 di sera e siamo arrivati là alle 9 e mezza, 10, era già buio. Abbiamo attraversato 3-4 dune e siamo arrivati veramente cioè era una roba stupenda, perché siamo svegliati la mattina con i gabbiani, siamo rimasti là 3 giorni, abbiamo fatto di quei falò e nessuno ci veniva a dire ma cosa fate. L'esplorazione l'avremmo fatta il venerdì successivo. Così, durante la settimana, abbiamo preso un canotto grande con i remi e uno più piccolo. E la previsione era trovare l'isola deserta che sognavamo. Nel canotto più piccolo avevamo stivato la tenda, da due posti. Il barbecue, due sedie piccole e un tavolino. E poi il frigo portatile pieno di cose da mangiare. Il costume da bagno, l'asciugamano, l'ombrellone, due lampade ad olio alla citronella, due taniche da 5 litri di acqua, due coperte e soprattutto tre boccette di Autan. Arrivammo alle 7 di sera al solito posto, parcheggiata l'auto, scaricato tutto, gonfiato i due canotti, li abbiamo trascinati in acqua, poi riempiti e siamo partiti a remi verso il largo per quella meravigliosa traversata di non sapevamo quanti chilometri. L'acqua era calma, si sentivano solo i gabbiani, non c'era nessuno. Arrivati a un certo punto si avvicina una barca a motore con una guardia sopra che ci dice: «Ma cosa fate qui? Ma dove state andando?» E io timidamente con la mano indico «Là!» E lui ci dice «Voi siete matti, è dal 1960 che non vedo nessuno remare in mezzo a questo canale. E per arrivare ci sono ancora 6 chilometri, in bocca al lupo!» La traversata sembrava interminabile. E infatti raggiungemmo terra alle 9:30 di sera, su delle isolette piene di canne, gabbiani e zanzare. Io ero spaventatissima. Ci fermammo e Paolo mi disse «Aspettami qui, che vado a controllare cosa c'è più avanti». E io rimasi sola al buio. Lo chiamavo in continuazione, ma lui non rispondeva. Poi, non so dopo quanto tempo, mentre morivo di paura, con i gommoni che tenevo per mano, immaginando che lui fosse stato sbranato da qualcosa di mostruoso e che poi sarebbe attaccato a me, lui tornò dicendomi «È tutto a posto». Allora presi il gommone più grande sulla testa mentre lui teneva l'altro e in mezzo alle canne, con una fatica incredibile, abbiamo attraversato una duna, due dune e infine abbiamo raggiunto uno spiazzo di sabbia liscia e tiepida. E sotto un cielo stellato che prima non avevamo visto, ci siamo abbracciati felici. Abbiamo montato la tenda al buio, messo le lampade e spruzzato di Autan anche in mezzo alle dita dei piedi. E ci siamo addormentati sopra quelle coperte sulla sabbia. Alla mattina il sole ci ha svegliato insieme ai gabbiani ed eravamo completamente soli. A destra e a sinistra di dove eravamo c'era la spiaggia di un'isola che era davvero deserta. C'era di tutto sulla spiaggia: alberi, pentole, stivali, boe e gabbiani. Il mare era bellissimo, la riva piena di mille conchiglie, un sacco di vongole sulla sabbia bagnata, cozze ancora vive e i pesciolini che giravano vicino ai piedi. Un sogno. Sembrava di essere in un posto ai Caraibi. Restemmo là fino alla domenica pomeriggio. E poi, a malincuore, risalimmo sui nostri canotti e remammo verso casa. Alla mattina, pieno zeppo di cozze, di vongole, infatti quando siamo tornati, un bidone dell'acqua che avevamo portato via l'acqua, l'avevamo riempito di vongole, perché c'era sulla sabbia, spuntavano tutte queste vongole fresche, che veramente era una roba troppo bello. Ogni anno torniamo, ma in un altro modo, adesso, a piedi. Quell'isola infatti è in realtà un lembo di terra sulla laguna del Po, che una volta era abitata e coltivata. Noi approdammo dal versante nord, che è disabitato, ma la parte sud è molto frequentata. Ci sono un ristorante, una spiaggia con gli ombrelloni e un sacco di gente. Ora noi la raggiungiamo con un motoscafo che fa avanti e indietro, e una volta arrivati camminiamo fino a che non vediamo più nessuno, e lì ci fermiamo. Widest ocean, soft inside, just enough to color it nice. Who's your willing sacrifice? Made us in one day. Ring ding, another one dies. Watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island, whoa, whoa, whoa, whoa. L'isola deserta è uno dei sogni più sogni che tutti sogniamo. È sufficiente fare un giro sul web, in qualsiasi momento della giornata o qualsiasi periodo dell'anno, per trovarci foto o video di spiagge bianche e solitarie, mari cristallini e palme. Anche se il mare non vi piace, tutti hanno nell'immaginario l'isola deserta come il luogo in cui approdare un giorno, chissà quando, prima o poi. E la vera differenza tra arrivare in un posto splendido, esotico, in aereo, magari con un viaggio organizzato, di quelli che ti prenotano anche il transfer dall'aeroporto al resort, e invece il viaggio che hanno fatto Cinzia e Paolo, sta tutto nel modo in cui loro ci sono arrivati. Perché andare al mare in aereo, o in auto, o in treno, vuol dire semplicemente arrivare in un posto. Andarci in barca dà invece tutta un'altra sensazione. Ti dà la sensazione di conquistare quel luogo, di farlo tuo dopo un viaggio avventuroso. Io che non sono un avventuriero e ho giusto fatto qualche breve vacanza in barca a vela, questa sensazione l'ho sempre provata ogni volta che sono arrivato in un posto. Non ho mai raggiunto un'isola deserta, sono sempre arrivato in luoghi dotati più o meno di un porto o almeno di una baia riparata dal vento. Eppure anche se hai fatto mezza giornata di navigazione con il vento leggero, ecco, entrare in un porto o dare ancora vicino ad una spiaggia dà tutta un'altra sensazione che non scendere dalla scaletta di un aereo o fermare la macchina in un parcheggio. E l'ho scoperto esattamente quando avevo 21 anni, durante un corso di vela. Eravamo 6 barche, partimmo dalla Sardegna verso la Corsica. La prima notte, dopo una traversata di qualche ora, facemmo tappa su un'isola che sembrava un disegno in mezzo al mare. C'era sabbia chiara e qualche arbusto, granito dappertutto e un mulo che ci girava indisturbato. Ci arrivammo verso le 7 di sera, quindi i gommoni e i motoscafi se ne stavano già andando. Strisciammo la chiglia delle barche sulla spiaggia e scendemmo. L'isola non aveva case, solo 2 cimiteri ai capi opposti dell'isola. C'erano sepolti e ci sono sepolti ancora i componenti dell'equipaggio di una fregata francese, naufragata su quell'isola durante una tempesta il 15 febbraio del 1855. In uno erano sepolti i marinai e nell'altro gli ufficiali. Erano in 700 in totale, ne morirono oltre 500. Quell'isola è l'isola di Lavezzi e si trova in acque francesi in mezzo alle bocche di Bonifacio. Nel mio ricordo quell'isola spunta dalla mia memoria come un sogno, come un'isola che noi conquistavamo per la prima volta, un piccolo approdo sicuro in mezzo al vento e al mare. Non lo so se esistano ancora oggi su questo pianeta terre mai esplorate, posti in cui l'uomo non ha mai messo piede. Un po' mi piace immaginare di sì, mi piace pensare che da qualche parte ci sia un pezzo di terra che le carte non conoscono. Oggi anche in auto il navigatore è così comodo che giustamente lo usiamo anche solo per sapere dire a casa a che ora è previsto il nostro arrivo. Eppure credo che atavicamente ognuno di noi abbia il desiderio di scoprire, di conquistare un'isola, una vetta, un deserto, perché quello che già conosciamo ci rassicura, ma quello che ancora non possediamo ci attrae e lo farà per sempre. Ho conquistato Viareggio partendo da Rimini, viaggio a piedi di 14 giorni per l'Appennino, esperienza bellissima, Filippo da Lucca, 349-238-6666. Da Milano a Parigi con un Richaud, dalla Riviera Romagnola, della Riviera Romagnola, in 2 sopra le Alpi, tutta la Francia e 12 giorni dopo, finalmente, i Campi Elisi e il nostro trionfo, 349-238-6666. Andarci in bici, andarci piedi è una cosa, ma andarci con un canotto di notte e raggiungere l'isola di Albarella, secondo me, è tutta un'altra. Pronto Cinzia? Sì, Matteo. Come stai? Benissimo. Dove ti trovi adesso, Cinzia? In sartoria. In sartoria? Tu sei una sarta? Sì. Quindi che cosa le sarte? Ma, guarda, io faccio delle cose, come ho fatto l'impossibile attraversando l'isola di Albarella, sì. Faccio delle cose impossibili anch'io. Cioè, tipo? Anche qua. Faccio tutto quello che si può fare, lo trasformo, lo stringo, lo allargo, lo allungo, lo... Ma quindi, Cinzia, fai dei capi... Cinzia, fai dei capi tuoi oppure aggiusti orli, cose? Faccio, ma sono pochi perché ormai la gente si compra un quello già fatto, certo, gli conviene, certo. Però sistemo tutto quello che si può sistemare, lo sistemo. Senti, e come li combattiamo questi franchising che in un'ora ti fanno l'oro dei pantaloni? Non lo so, sai, boh. Tu in quanto lo perché fai un oro dei pantaloni, Cinzia? So che ci sono quelle persone lì che fanno ste robe, però un lavoro fatto bene prende tempo, Cinzia, diciamocelo. Sì. Torniamo. No, guardi, è un lavoro complicato perché se tu lo vuoi fare bene, non devi guardare il prezzo che fai. O lavori per passione o non lavori. Semplice. Dove l'hai imparato? Come si diventa sarte? Ah, io guarda, ho lavorato 25 anni sul settore tessile industriale e poi sono passato, cioè quando mi sono stancata di girare per l'Italia, di fare la vita da, da insomma da, di qua e di là, sì. Ho preso, rilevato questa sartoria e l'ho trasformata nella mia sartoria. Brava Cinzia, torniamo a quella notte là però, sì. Torniamo in mezzo al mare verso l'isola di Albarella. Su un canotto. No, non è la, guarda, non è l'isola di Albarella, è di fronte all'isola di fronte, Albarella. Perdonami, di fronte all'isola si chiama di Albarella. Scano Cavallari. Scusami, me lo ripeti? Si chiama Scano Cavallari. Scano Cavallari. Scano Cavallari. Scano Cavallari. Sono due proprietari, uno l'ha affittata, che hanno messo un ristorante e hanno sì. Gli ombrelloni. L'altra parte, il proprietario ha detto no, io la lascio lì, non voglio farla popolare. E io e noi siamo capitati nel punto dove... Dove era deserto, insomma. Ma voi avevate uno spirito avventuriero di vostro o semplicemente quella è stata una cosa che avete detto questa dobbiamo abbiamo fare? Abbiamo fatto tante di quelle cose un po' particolari che non... dovrei scrivere un libro. Sì, secondo me sì, io te lo dico ufficialmente, secondo me dovresti, partendo da questo episodio qua. Però allora, tu, siamo là di notte, ci sono un sacco di zanzare. Mamma mia, non dirmela, guarda, peggio che un mostro. Peggio perché che un... ti rosano attorno in sciame e sono migliaia, hai capito? Tu ti batti da una parte e ti pungono dall'altra. È la laguna maledetta quella, sì, è la laguna che è maledetta perché è piena di zanzare. Quindi insomma, torniamo a noi, arriviamo, sono le 9:30 di sera, c'è un grandissimo silenzio e c'è un sacco di buio. Il tuo ex compagno dove va? Dove si infila? Perché ti lascia lì da sola? Perché, noi siamo arrivati dal lato nord dell'isola, dall'altra parte c'era il mare. E il lato nord era la laguna, cioè c'erano tutte canne, gabbiani sì. E zanzare. Già, quelle l'abbiamo capito. E allora, cioè io avevo proposto anche di mettere la siccome ero terrorizzata, ho detto mettiamo la capanna qua sopra le canne e aspettiamo domani mattina perché tornare indietro è impossibile. E io avevo paura. Invece lui ha detto no, vado a vedere. Ma è stato via più di un quarto d'ora. Ah vabbè, credevo 2 ore io. No, due ore eri morta Cinzia, 2 ore non ce la facevi. Guarda, sono stati più di, ti dico io, non sono stati un quarto d'ora, per me sono stati una giornata intera perché io ero terrorizzata. Lo immagino. Quando sei stata l'ultima volta adesso Cinzia? Sono stata l'estate scorsa. Ah, e come l'hai trovata? Guarda, è sempre uguale. Bene. Perché il lato nord non è mai stato colonizzato, insomma. Colonizzato. Però adesso c'è questo imbarcadero che va avanti e indietro e con 3,50 euro tu parti da Porto Levante e vai nell'isola. Poi se sei un cittadino, come si dice, abituato ai comfort, ti fermi al ristorante, mangi, bevi, altrimenti ti danno l'ombrellone, lo sdraio e tutto il resto. Certo. Se invece sei uno come me che sono abituata anche a stare in mezzo agli stivali, ai piatti, alle pentole, ai tronchi, allora vai. Te ne stai lì, va bene. Cinzia, io ti ringrazio moltissimo per il racconto, per il tuo spirito, ti faccio in bocca al lupo per il tuo lavoro e prima o poi mi farò una traversata a Remi verso, verso Scano. E poi è più bello il ritorno, sai? Lo immagino, è sempre più bello il ritorno, Cinzia. Sì. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Ciao Cinzia, ciao. Buona giornata. Ho camminato da Swinemünde a Lubecca per la prima tappa della Via Baltica verso Santiago de Compostela. Nella foto che ci ha mandato, secondo me Cinzia è nel retrobottega della sua sartoria. Ha degli scatoloni di banane alle spalle, un braccio in gatto, un gatto in braccio e un bel pacchetto di MS davanti su un tavolo. Nella puntata di oggi, che racconta, così come lo racconta Cinzia ovviamente, della conquista di una terra, anche se poi quella terra è in realtà una penisola, non è un'isola ed è molto più abitata di quanto sembrasse a Cinzia e al suo compagno quando arrivano con questo canotto sull'isola, si parla comunque in qualche modo di conquistare dei posti, delle terre sconosciute. Oggi terre sconosciute nel mondo non ce n'è più, tutto è stato mappato, tutto è stato raggiunto e tutto è stato raccontato. Ci sono però ancora dei luoghi che sono per lo più luoghi inospitali per l'uomo, che sono di solito o molto in alto o molto in basso, o molto in alto in cima alle montagne o molto in basso nel fondo dei mari. E ci sono persone che ancora quei posti, più che conquistare, li raggiungono. Tra di loro c'è una donna che è italiana, che è una delle alpiniste più famose al mondo, ed è Nives Meroy, ed è al telefono con noi. Nives, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui innanzitutto. Grazie a voi. Ma partiamo da questa cosa di cui abbiamo parlato anche fuori onda, che mi diceva che il termine conquistare una vetta, che tutti usano, soprattutto la letteratura e soprattutto i giornali quando parlano delle vostre imprese, è un termine che non le appartiene particolarmente. Sì, è un termine molto battagliero conquistare, perché vuol dire andare all'attacco di una vetta e sfidarla e conquistarla. Io preferisco, come dicevo appunto, lasciarmi conquistare dalle montagne, anche perché quando vai in montagna naturalmente lassù ti rendi conto della estrema fragilità dell'essere umano e quindi... è importante riuscire invece a cercare di entrare in armonia con questi posti. Lei insieme a suo marito, che è suo compagno di vita e di cordata, avete raggiunto 11 dei 14 8000 del mondo, giusto? Mi corregga se sbaglio. E lo avete fatto in una maniera particolare, cioè senza ossigeno e senza portatori d'alta quota, giusto? Sì, esatto. Qual è la differenza tra arrivare in cima a 8000 metri senza ossigeno e senza portatori d'alta quota? Immagino sostanzialmente più fatica, giusto? Sì, beh, è proprio una questione fisiologica, perché è come, facendo l'estremo, l'opposto, è come andare sott'acqua immergendosi con le bombole o senza bombole, con il cavo e il peso che ti aiutano nella discesa e poi il pallone nella risalita, e invece andare esclusivamente con i propri polmoni e con le proprie forze. Quanto ci si mette? Quanto ci si mette arrivare in cima a un 8000 solo con i propri polmoni? Ma... i tempi sono gli stessi che salendo con le bombole di ossigeno e con l'aiuto dei portatori d'alta quota, i cosiddetti climbing sherpa. Sì. Anche perché l'importante è, visto che non siamo costruiti per sopravvivere in quegli ambienti, l'importante è cercare di essere il più veloci possibile. E quindi cercare di salire velocemente e scendere prima che la degenerazione che l'organismo subisce porti alla morte. Difatti a quelle quote possiamo, oltre gli 8000 metri, nella cosiddetta zona della morte, l'organismo sopravvive al massimo 48 ore. Ma quindi quando raggiungete una vetta, che so io, l'Himalaya, banalmente, perché è quello che mi viene prima in mente perché lo conosco meglio, quanto si sta su in cima? Cioè, una volta arrivati, cosa fate? Fate delle foto? Piantate una bandiera, vi guardate in giro? Una salita, una cima, mediamente richiede 4, 5, 6 giorni, perché sali, arrivi a un primo campo, monti la tenda, dormi, la mattina successiva riparti, prosegui, parti di notte e ad esempio arrivi a mezzanotte e mezza, ricordo siamo partiti per la nostra salita all'Everest. Siamo arrivati in cima intorno alle 11 di mattina e lì siamo arrivati sulla fine del mondo proprio e poi siamo stati lì una ventina di minuti, ci siamo guardati intorno, abbiamo fatto diverse foto. Quindi 20 minuti in tutto in realtà, cioè un mese di preparazione, di acclimatamento e di salita, e poi in cima là dove si vuole arrivare si sta un quarto d'ora. Sì, proprio perché appunto l'importante è scendere il più velocemente, certo, possibile. Certo. Proprio perché, anche perché una salita si può dire conclusa nel momento in cui sei nuovamente sano e salvo al campo base. Lei sente una differenza particolare nell'essere donna ed essere un alpinista, oppure la vive semplicemente come un alpinista e basta? Beh, storicamente sì, è vero che l'alpinismo è un'attività maschile, l'Himalaya è sempre stato un terreno di gioco degli uomini. Per gli uomini, sì, e le donne si sono avvicinate a questa attività in tempi relativamente recenti. E adesso per fortuna incomincia a esserci una presenza importante delle donne a praticare questa attività. È vero che fisicamente in proporzione siamo meno forti degli uomini, però naturalmente la natura ci ha dotato di altre qualità e quindi secondo me basta non cercare di di diventare delle copie degli uomini, ma cercare invece di coltivare quelle che sono le nostre qualità, che possono essere, non so, ad esempio una grande resistenza, una resistenza non solo fisica ma anche psicologica, una capacità di adattarsi a situazioni difficili. Certo, chiaro. Senta, io chiuderei con, tornando all'inizio, e cioè riguardo al fatto che l'alpinismo non è una gara, no? E salire le montagne non è una gara. Lei ha fatto 11 dei 14 8000. Però ho letto da qualche parte che lei ha deciso di interrompere questa che tutti vivevano come una gara, no? Di compierli tutti i 14. È vero, è ancora così? Non ha intenzione di salire gli ultimi tre? Ma adesso che è finita la gara, che la gara si è conclusa, che quindi si sono spenti un po' i riflettori, magari se li fa. Sì. Sì, beh, abbiamo ci siamo presi questi, Romano ed io, questi tre anni praticamente di pausa, e adesso la scorsa primavera siamo ritornati in Himalaya e ci piacerebbe la prossima riuscire a ritornare nuovamente là. Bene, allora io la ringrazio molto, faccio a lei e a suo marito i migliori in bocca al lupo e complimenti per tutto. Grazie, e crepi metaforicamente. Metaforicamente. Grazie mille, Nives Meroy, buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. 349-238-6666, arrivano un sacco di messaggi di saluti e di complimenti a Nives Meroy che non ho fatto in tempo a darle in diretta, soprattutto su Twitter, sul profilo Twitter del programma, che vi ricordo essere Voi Siete Qui R24. L'altro giorno qualcuno ha scritto, scrivete un cartello a Matteo Caccia per definire i profili su Twitter di Facebook, ogni volta li sbaglia. E poi l'ultima testimonianza di Terre Scoperte. Anche se qui non si tratta di scoprire delle terre, però si avvicina. Luigi Mario Peretti mi scrive: la mia esperienza attorno al lago di Bolsena, 13 giri del lago continuativi, ogni giorno, ogni giro 3 giorni, 39 giorni, una splendida esperienza sia spirituale che psicologica, un cammino zen chiamato il cammino della dea, perché per gli etruschi il lago era sacro e considerato la madre. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, a Paolino Corleoni, grazie a Nives Meroy per essere stata con noi e grazie soprattutto a Cinzia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, sono Fabio De Matteis, parlo da Roma. La storia della prossima puntata è la mia e parla di la mia musica in strada. Questa è la mia storia e io sono qui.